This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Of a religion, will the Lord forgive? Buon pomeriggio a tutti, c'è poco da fare, una doppia cassa al sabato pomeriggio facilita la digestione e mette allegria. E vai! Buonasera dottor Corrias, buonasera dottor Scarpa in studio qui con me dalla parte dei dalla bottoni, dalla parte dei bottoni, nella sala dei bottoni. Allora oggi di che cosa si parla, Babe? Di doppia cassa. È benissimo allora, parliamo di un genere che... abbiamo iniziato un po' di tempo fa parlando, dedicando una puntata alle origini, e oggi ci spostiamo nella splendente Florida a parlare di death metal e di quello che accadeva un po' di tempo or sono, e dove Florida, quindi patria del death metal floridiano non a caso, e che poi tra l'altro prende proprio il nome, il genere in sé, stranamente dal gruppo che abbiamo appena ascoltato, ovvero i Death, perché insomma un giornalista al tempo definendo quello che facevano, insomma, chiamò sta roba doppia cassa con chitarre super veloci death metal. Ovviamente, come si diceva già un po' di tempo fa, l'origine, quella vera musicale, arriva da un gruppo mai dimenticato, che sono i Possessed, con un disco uscito nell'84 che si chiamava Seven Churches. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo. We'll be right back. Siete sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo, sono le 15:55 minuti primi e questi erano Dead, da cui l'omonimo genere, anche se in realtà ha origini un po' più arcane. La cosa che mi ha sempre stupito di questo genere è che ha preso piede tantissimo in Florida. Uno va in Florida e dice c'è caldo, mi rilasso, invece no. No, vabbè. Quelle sono le cose che hai vissuto negli anni '80 con Miami Vice, no? Esatto. La Ferrari bianca. La testa rossa bianca sgommata. No, succedeva anche insomma, a parte la scena musicale che stiamo ascoltando oggi, però insomma succedeva che scontri razziali fra neri e cubani, perché comunque ricordiamo ispanici, insomma ricordiamo che a Miami soltanto c'erano 800.000 cubani, insomma fra Miami e città vicine, insomma, e che molti arrivarono poi con un ponte navale del 1980, 125.000 per la precisione, insomma una città che davvero era una Havana 2, insomma erano forse più cubani che erano a Miami che a L'Avana. Una città di gomma, tendeva ad espandersi man mano che arrivava la gente, poi però la gomma insomma così morbida non doveva essere. Sì, comunque poi scontri fra polizia, perché ci fu come a San Francisco, no? O a Los Angeles, dopo un omicidio, insomma, della polizia, ci furono degli scontri insomma molto violenti che durano parecchio, insomma, Miami, città vetrina, quant'altro, turistica, però succedeva anche questo nella periferia. E poi una nota di colore, insomma, che fu nell'89, proprio in questo periodo qua, affondato un panfilo che era stato di Hitler. Addirittura la comunità ebraica, insomma, volle ricordare il rifiuto di Miami a una nave piena di esuli ebrei della Germania durante il nazismo, che furono appunto respinti, tornarono in Germania e furono appunto uccisi dal regime, e quindi fu affondato un panfilo a Miami, proprio Lost Wind, appartenuto a Hitler, insomma una nota di colore di quello che succedeva oltre alla scena musicale, insomma una città bella attiva che no, non era soltanto Miami Vice, no, era a volte anche l'esatto opposto. Come tutte le città un po' grandi americane, no? Con due facce che molto spesso si scontravano. Fatto sta che fine anni 80 uscivano due dischi, anzi a dire il vero quattro dischi fondamentali. Oltre ai Death, che poi diedero il nome proprio al genere musicale e tra virgolette gli si attribuisce la nascita del death metal, venivano a nascere sempre con molta più frequenza altre realtà con interpretazione del genere completamente differente. Uno su tutti, 1989, usciva Slowly We Rot, disco degli Obituary fondamentale, dove poi gli Obituary proseguirono con Cause of Death, interpretando la loro visione di death metal, ovviamente a livello musicale e non solo, con tempi molto più cadenzati, infatti è loro, insomma, i tempi moshcore partirono praticamente da loro. Si diceva ai tempi era impossibile non ascoltare un pezzo degli Obituary senza muovere la testa, e credetemi, era vero. Oltre a questo poi ci arrivarono i Morbid Angel, 1989, Altar of Madness, Bless Are the Sick, 1991, album criticatissimo, secondo me molto contraddittorio. Ma le tematiche e anche a livello musicale sono totalmente differenti, mentre nel primo caso si passa da tematiche legate alla morte, torture, eccetera eccetera, poi con una certa evoluzione si parla già di ecologia e via dicendo. Questa è la strada intrapresa dagli Obituary, mentre invece Morbid Angel e poi anche Decide, di cui parliamo dopo, la chiave di lettura è una certa, come dire, poetica totalmente anticristiana, quindi si parla fondamentalmente di satanismo. Loro si sono sempre sono tra i maggiori esponenti, ecco, di tematiche a sfondo anticristiano in primis. E ci andiamo ad ascoltare un pezzo, giusto per rendere un po' l'idea. Insomma, il death metal, Nicola, portò delle innovazioni, no? al tempo, sia dal punto di vista stilistico che tecnico. Decisamente, anche perché comunque si diceva ai tempi che dei gruppi che suonavano thrash metal, che non era altro che una versione thrash per degli zappatori, nel senso che comunque erano considerati non proprio bravi tecnicamente, bensì invece ci si occupava fondamentalmente di creare muri di suono, cioè velocità e caos il più possibile, ecco, cioè quindi anche dalle voci alle chitarre e quant'altro, insomma. Sì, anche può variare, insomma, dal semplice al brutale, quindi certo. Comunque c'è un po' di tutto, sì, cioè cambia proprio nella canzone stessa, cambia il tempo, il ritmo, appunto dal brutale al semplice. Sì, sì, no, ma infatti poi... Anche raffinato. Sì, dopo un po' c'è una progressione stilistica sempre maggiore, tant'è che poi si arriva a livelli veramente esagitati, da appunto che... le scuole, insomma, andavano dagli Stati Uniti al Canada, uno su tutti, dopo un po' di anni furono i Kritopsi, dove praticamente a oggi utilizzano partiture propriamente jazz suonate a velocità inumane, e praticamente poi creano dei muri di suono assoluti. Ma infatti la prerogativa del death metal era proprio quella di creare un connubio tra velocità, tecnica e violenza allo stato puro, quindi usando fondamentalmente ritmiche veloci, bruschi cambi di tempo e poi testi fondamentalmente morbosi e con voci ultra gutturali. All'inizio, insomma, si creava poi quella atmosfera abbastanza stringente e opprimente, ecco. Subito dopo, dicevamo, nacquero i D-Side, che loro sono stati praticamente tra i primissimi, subito dopo Morbid Angel, proprio ad utilizzare quel death metal violentissimo, dove praticamente non ci si ferma dall'inizio alla fine, e poi sono stati poi i precursori successivamente, assieme a Malevolent Creation, Necrofagia, Massacre, eccetera, a quello che poi venne definito Brutal Death, che poi è l'esagerazione ulteriore, quindi l'esasperazione totale del death metal. Quindi cioè, si va, le velocità aumentano vertiginosamente, la tecnica ancora di più, e i testi diventano sempre più brutali, quasi come dire compromettenti, mettiamola così. You feel the source. abbiamo ascoltato, insomma, l'utilizzo della doppia cassa era fondamentale, non poteva non crearsi un muro sonoro, come poi ci hanno abituato in parte i Morbid Angel, ma in primis i Decide. E quindi l'utilizzo ovviamente di blast beat, quindi batterie velocissime, tempi aggressivi, e poi le parti vocali dovevano essere rigorosamente growl, con degli sprazzi qua e là di scream, eccetera, che poi vennero poi riutilizzati e usati in maniera esagitata da un genere che poi nascerà subito dopo in Europa, che veniva chiamato black metal. Altra cosa da dire è che si crearono fondamentalmente due scuole, quella floridiana e poi in parallelo quella europea. Quella europea ovviamente prendeva a piene mani dal heavy metal classico, i suoni erano un pochino più mediosi, a differenza poi di quella americana floridiana, grazie a un produttore del tempo che ha fatto il buono e cattivo tempo, un certo Scott Barnes, che da lì ha utilizzato dei suoni estremamente bassi, quindi accordature sempre più sotterranee, amplificatori di bassi, eccetera, e che qui praticamente da lì è nato proprio il genere, il Florida Style, che è quello poi che abbiamo sentito, di cui poi al tempi tra fine anni 80 e primi anni 90 ci fu un'esagerazione di gruppi che nascevano quasi come funghi ovunque in quella zona. Ci andiamo a ascoltare l'Inside? We'll be right back. buona dose di vocalità bestiale anche oggi qui a This Is Not An Exit. Ricordo che siamo sempre nel periodo d'oro di questo, di queste sonorità, cioè la fine degli anni 80, inizio dei 90, un'epoca in cui questo genere, l'heavy metal, un po' come la techno che sentiamo in sottofondo, ebbe una diffusione incredibile a livello mondiale. Sì, sempre il solito però, cioè, io volevo ascoltarmi così. I Pasadena. Cavolo. E invece... Eppure, se la techno veniva ballata da, che ne so, da Goa a Detroit, all'Europa, a tutta Europa, e non solo, anche in Russia, insomma, un po' per tutto esplose, anche i gruppi death metal, o comunque heavy metal in generale, in questo fine, di anni, fine anni 80, si diramò tra death, grind e black, ma praticamente veniva suonato heavy metal ovunque, migliaia e migliaia di gruppi ebbero un successo incredibile, e ancora più incredibile se si pensa che non ebbero... promozione. Direi che uno dei generi meno radiofonici in assoluto della storia del rock sia l'heavy metal, soprattutto questo, il death, che è violento, granitico, assolutamente privo di melodia o quasi, riff sempre più massicci che dà una sensazione di potenza e frustrazione contemporanea non indifferente, cioè tutto il contrario di quello che la musica da radio doveva essere. Altra cosa importante è che comunque questa evoluzione, soprattutto propagazione del genere, è andata avanti per canali al tempo alternativi, quindi comunque iniziavano a nascere i primi tape trader, dove praticamente ci si scambiava le cassette da un continente all'altro, e così si venivano a conoscere gruppi sempre nuovi, e i gruppi nascevano, si mettevano in contatto con nuove etichette, qui ancora le fanzine e tutto il resto, insomma, creare una vera e propria scena nelle varie zone che per certi versi collaborava, sì, una sorta di tribù non proprio telematica ma cartacea, no Rosario? Sì, poi musicalmente sappiamo che la differenza c'era, perché mediamente comunque i gruppi americani pestavano un po' di più, no? E invece un po' più rock, diciamo, quelli europei, se vogliamo dire. Però insomma c'era questa fratellanza comune, queste tematiche più o meno uguali, sempre la frustrazione del ragazzo bianco che per i neri magari è stato il rap fino agli 80, inizi anni 90, per i bianchi è stato appunto l'heavy metal, il death metal e consorci. Ce n'era per tutti i gusti. We'll be right back. così ci siamo ascoltati gli Immolation, altro gruppo particolarissimo dove i Morris Sound Studios qui hanno veramente giocato un ruolo fondamentale. Infatti il sound che andava per lo più era questo, cioè velocità, ritmicità e testi rigorosamente ultra anticristiani. Altra curiosità sull'Immolation era quella che comunque sono stati forse tra i più sfigati, se vogliamo, a non riuscire a vivere di musica, a differenza dei vari Decide, Morbid Angel, Malevolent Creation, Incantation, Broken Hope, Autopsy e chi più ne ha più ne metta. Loro alla fine hanno sempre avuto quella, sono stati rilegati un attimino all'ambito underground, conosciutissimi, super apprezzati, però non sono mai riuscito a fare quel salto di qualità che poi potesse permettervi di sopravvivere o vivere di musica, ecco. È incredibile infatti che molti gruppi rock dell'epoca non riuscissero a vivere di musica, erano tantissime etichette indipendenti negli Stati Uniti e la maggior parte dei gruppi che firmavano per tali etichette non riuscivano a vivere di musica, invece l'heavy metal garantiva questo, proprio probabilmente grazie al fatto che A, non ci lucrava quasi nessuno perché era un passaparola, B, perché comunque avevano un successo globale, cioè suonavano veramente in tutto il mondo. Vero, vero, vero, isole comprese. Sì. Grazie. Beh, che dire, buon pomeriggio, o meglio ancora, lieve pomeriggio a tutti. E beh, dopo questo ascolto, insomma, auguriamo un bel pomeriggio a tutti e alla prossima puntata. Ci vediamo sabato prossimo.